Iniziamo così. Vediamo se facciamo un check giusto o no. Adesso io mi sento. Super cariche. Super cariche, super cariche assolutamente. Perché questo è il secondo incontro di un ciclo e noi volevamo darci la giusta grinta per iniziare a parlare di questa cosa. Ci presentiamo, siamo qua a Radio ZM. Io sono Chiara. Io sono Greta. E niente, questo buonasera a tutti e questo, come dicevamo, è l'incontro di, diciamo, il secondo incontro di un ciclo che abbiamo chiamato Nuovi significati per l'antifascismo, che è una serie di incontri, diciamo, che noi abbiamo deciso di, diciamo, di creare in avvicinamento al 16 marzo. Quest'anno sono 18 gli anni che ci separano dall'omicidio di Dax, avvenuto appunto il 16 marzo del 2003, compagno antifascista ucciso dai fascisti. E quindi noi che cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo pensato un po' di, come dire, provare a rideclinare un po' il nostro agire antifascista, la nostra pratica antifascista, che, come dire, non ha solo un campo di intervento, ma ne ha tantissimi. Esatto, rideclinare un attimo il significato in tutte le sue varie pratiche. Esatto, quindi praticamente abbiamo iniziato martedì, hanno iniziato, perché non eravamo noi, erano il buon Pica e il buon Gulli, che hanno iniziato con diciamo un tema ormai contemporaneo, magari più atipico sotto alcuni punti di vista, che è quello dei dispositivi tecnologici di controllo, e quindi, come dire, il controllo cibernetico. Io parlo da profanissima, c'è un 3310, quindi non ho neanche WhatsApp, ci sono gli over X che ampiamente mi strabattono sull'ambito tecnologico, ma infatti non c'ero io a parlarne, c'erano appunto Pica, Gulli e Dan, che invece, a differenza dei primi due, è una persona di senso e di senno, molto competente. E proseguiamo noi oggi con il tema dell'ecologia e della cura, in realtà. Ma in realtà non terminiamo neanche oggi, nel senso che a seguire ci sono altri svariati incontri, no? Greta, tu che sei più addentro di questo percorso di costruzione, diciamo. Ci sono 8 incontri, ne seguiranno altri in avvicinamento al 16 marzo, in particolare sull'antifascismo e anticapitalismo, sulla costruzione di comunità resistenti, sull'istruzione con il contributo della rete Student Milano, e sul femminismo grazie alle compagne di Degenerazione, e l'antirazzismo, cioè l'antirazzismo, sì. E ci avviciniamo poi all'ultima, diciamo, perché questo è un appuntamento bisettimanale, quindi ogni settimana, il martedì e il giovedì, giusto? Sì. Tranne l'ultima settimana, che è un po' più anarchica. In generale, martedì e giovedì, quindi ci troviamo un po' a raccontare di cosa significa per noi diciamo l'antifascismo oggi nel 2021, al quasi un anno dall'inizio di questa pandemia, ma in generale all'interno del nostro ventunesimo secolo, che non ha perso un istante di richiederci di essere antifa, diciamo, se possiamo dirla così. E una cosa molto bella, giustamente Greta lo diceva prima, io lo ripeto, è che per fortuna all'interno di questo ciclo di incontri siamo riusciti un po' a tirare insieme tutta una serie di diciamo di spunti che arrivano da altri cose. Quindi giustamente si citava la rete studenti, che in questo ha fatto un lavoro ottimo, e quindi sono in realtà co-costruttori, però in realtà appunto ci sono poi, ci siamo avvalsi anche di tanti altri compagni e compagne che quotidianamente praticano l'antifascismo, e quindi appunto si citavano una di meno. In realtà per esempio oggi parleremo, questo per iniziare a spoilerarvi come funzionerà la giornata di oggi, fondamentalmente abbiamo ben non uno, non due, non tre, ma addirittura 4 ospiti. che arrivano da alcune delle, diciamo, delle realtà di movimento e non di comitati di abitanti, eccetera, eccetera, che in una qualche maniera praticano l'antifascismo nella sua declinazione di cura e di tutela del territorio. E tra l'altro chiuderemo con un altro compagno che ovviamente fa anche il suo, diciamo, nell'ambito delle lotte, ma che è Andrea Staid, che è un antropologo che ci aiuterà anche a provare un po' a tirare le fila della puntata. Noi ovviamente iniziamo con il ringraziare ampiamente tutti gli ospiti e tutti coloro, in realtà, che in primis tutti coloro che fanno antifascismo e tutti coloro che lottano per il territorio e per una società della cura, perché ovviamente se non ci fossero loro noi potevamo anche chiuderla qui questa puntata. E niente, quindi fondamentalmente che cosa succederà? Noi abbiamo selezionato un po' di musichina, quindi non parleremo sempre solo noi, ma a breve parleremo un po', inizieremo a chiamare un po' i nostri ospiti per provare a raccontare insieme a loro che cosa vuol dire per loro essere, che cosa vuol dire per loro ecologia, che cosa vuol dire per loro come antifascisti lottare per un mondo diverso da questo di palazzoni e chilate di cemento e erosione del territorio che sta invece dilagando. E tutto ciò lo facciamo però iniziando, siccome per il momento abbiamo già detto delle vaccate, diciamo, però magari iniziamo come primo spunto da una persona che invece, diciamo, ne sa un po' più di noi. Lui non l'abbiamo chiamato perché ai noi non è più tra noi, oltre che probabilmente non avrebbe risposto alla nostra telefonata, che purtroppo, esatto, peccato, perché sarebbe stato sicuramente un compagno utile da avere al fianco, però vabbè, niente, insomma, quindi utilizziamo le sue parole, perché giustamente per fortuna almeno di quelle ne abbiamo in abbondanza. Stiamo parlando di Butchkin, teorizzatore dell'ecologia sociale, e che cosa, diciamo, vogliamo iniziare, giusto per metterci un po' nel set della situazione, con una sua citazione. Dice Butchkin: quello che è più importante è che il punto di vista ecologico conduce ad interpretare ogni relazione sociale, psicologica, naturale in termini non gerarchici. Per l'ecologia non si può comprendere la natura se ci si pone da un punto di vista gerarchico. Inoltre, essa afferma che la diversità e lo sviluppo spontaneo costituiscono dei fini in sé, che devono essere rispettati per se stessi. Abbiamo iniziato con questa perché, tutto sommato, in realtà è, in poche righe, a differenza delle mie centinaia di migliaia di parole, Butchkin rende molto bene l'idea, no? Cioè, è un buon punto di partenza, assolutamente, nel senso che Greta sicuramente lo sa meglio di me, che essendo una scienziata della natura, rispetto a questa visione in cui l'essere umano arriva e dispone di tutti gli altri esserini sotto di lui, viventi e non, animali e vegetali, e quindi ne fa, li utilizza a suo scopo, bisogna recuperare la vista secondo cui l'essere umano tutto sommato è parte di un ecosistema. Come rientra, cioè, lo studio dell'ecologia, appunto, l'essere umano inquadrato insieme a tutti gli altri componenti naturali e vegetali dentro un ecosistema, e l'interazione deve essere, cioè ci deve essere un certo equilibrio affinché l'ecosistema viva e sopravviva e possa evolvere. Anche perché, diciamo la verità, al di là del fatto che sia, ingiusto mettersi dal punto di vista gerarchico, posto che per me può bastare come significato, cioè a partire dal presupposto che è ingiusto mettersi in cima a questa piramide invece che al centro o a lato, a seconda di questo grosso cerchio di organismo, tra l'altro come dire, se l'essere umano continua a utilizzare a suo piacimento le risorse per i suoi bisogni anche a breve termine, alla lunga stiamo vedendo come è una fine già scritta. È una fine già scritta. È già tutto annunciato da troppo tempo. È una fine già scritta, quindi l'essere umano non è stato poi tutto sommato così furbo, e nonostante pensasse di prendersi delle libertà che evidentemente non poteva prendersi, adesso stiamo valutando già i primi crolli strutturali. Sì, abbiamo già sgravato tutto quello che abbiamo già sgravato. Siamo andati oltre. Tant'è che, come si chiama? L'Earth Day, giusto? Sì. Ok, l'Earth Day praticamente è la data in cui, sì, la Terra esaurisce... Esaurisce le sue risorse per quell'anno, giusto? Allora, fondamentalmente, quindi, l'essere umano usa un determinato... Diciamo, la Terra fornisce una determinata quantità di risorse, le risorse utilizzabili e sfruttabili dall'uomo, che hanno un tempo di recupero, hanno un tempo di proprio di produzione in sé, per cui è stato stimato quanto, in base alla popolazione mondiale, quante se ne possono usare, quando finisce durante l'anno questo tipo di risorsa. Se non erro, siamo intorno ad agosto. Sì, e ogni anno... anticipa, tranne quest'anno. Perché? Perché con la pandemia, diciamo, fra le drammatiche sviluppi che ha avuto la pandemia, evidentemente a livello globale, devo dire, la natura ha tirato un pezzettino di sospiro, di sollievo, e quindi per la prima volta dopo tipo 30 anni, o forse anche di più, l'Earth Day è dei giorni dopo. Sì. È dei giorni dopo, e quindi l'essere umano obbligato è riuscito a farsi leggermente meno male del solito. Detto questo, praticamente noi, diciamo, entriamo più, quindi il senso, un po' la logica di quello che volevamo dire è contenuta in queste 4-5 righe. Però ovviamente non è che finiamo qui, nel senso che abbiamo la fortuna di sviluppare questo tema con svariati ospiti e ospiti, che è invariantivo, non lo so, credo che sia invariantivo, quindi è ospit. E nello specifico avremo modo di parlare con un compagno di ecologia politica, con una compagna di animatrice di praticamente ogni lotta nel raggio di 180.000 chilometri, nonché cara amica e faro nella notte, che in realtà nello specifico ci parlerà di due lotte che diciamo contraddistinguono questo territorio, che è il nostro. Sì, sono le più vicine a noi. Esatto, quindi stiamo parlando del Parco Agricolo del Ticinello e della questione del benzinaio Kuwait, voluto e bloccato dai cittadini con un ricorso, tramite un ricorso al TAR, lotta che non è assolutamente finita. Infatti abbiamo temporeggiato un po', perché nel frattempo eravamo connessi all'ennesima commissione pseudo la cittadinanza, non saprei neanche bene come definirlo, appunto in merito a questa questione. Parleremo anche con il comitato, esatto, della sanità pubblica, per la sanità pubblica. E infine, appunto, parleremo con Stide, così per tirare un pochino le fila. A questo punto io direi che, siccome stiamo parlando già da un po', mettiamo una musichina e poi passiamo a chiamare il nostro primo ospite. Yeah. Ti sembra? Ok. Sì. Allora, come prima musichina, visto che abbiamo già parlato ampiamente di quanto pessimi sono gli esseri umani e di quanto, come dire, la loro presenza non sia poi tutto sommato così gradita al resto dell'ecosistema, e anche per partire un po' in grintina, così, visto che proseguiamo in grintina dopo Pride of the Woods con cui abbiamo iniziato, io direi di ascoltarci una canzone di Björk che si chiama Earth Intruders. We are the earth intruders, we are the earth. sharpshooters, buckle parachuters necessary. Eccoci qui, questa era Björk, il pezzo era Earth Intruders e nel frattempo chiamiamo il primo nostro ospite, se vediamo se ci risponde. Allora, il nostro primo ospite inizialmente noto come gender fluid perché non avevamo nozione sul... Vediamo se adesso ci risponde. Eccomi. Eccolo. Ciao. Sì, sì. Voi mi sentite? Ti sentiamo. Bene. Allora, Strudel. Proprio lui. Piacere. Eccolo. Allora, ciao Strudel. Niente, quindi Strudel, introduciamoti. Compagno di ecologia politica. Esatto. Compagno ecologista, possiamo dirlo? Sì, potete dirlo. Direi proprio di sì. E quindi niente, allora, ti abbiamo già un po' introdotto a qual era sarebbe stato il tema della giornata, ma te lo ridiciamo a tutti. Noi stiamo cercando, diciamo, di trovare dei nessi e cercare di capire, come dire, da una parte perché la lotta ecologista è antifascista, e dall'altra, okay, però più o meno lo stesso motivo, cioè perché un antifascista dovrebbe essere ecologista, a partire da te o dal collettivo di cui fai parte, insomma, raccontaci okay un po'. Ok, proverò a rispondere. Allora, esattamente su questa domanda mi viene da dire che per quale motivo l'antifascismo e ecologia sono collegate, in quanto nell'attivismo ecologico, ecco, si va a cercare di scardinare, di parlare, di attivarsi su quelle che sono delle scelte, diciamo, delle scelte governative, economiche, che vanno a inficiare sull'ambiente, sulla terra, sugli esseri umani e non umani, e che esattamente come le politiche fasciste, nel senso largo del termine, ovviamente, vengono calate dall'alto, sulla testa di tutti e di tutte, e con dei fini ovviamente propagandistici o non direttamente collegati al benessere di chi l'ambiente lo vive e lo attraversa, ecco. Quindi lottare per un'ecologia che in qualche modo è antifascista vuol dire, secondo me, secondo noi, opporsi a tutte queste decisioni che non rispettano la salute delle persone, ma non soltanto delle persone, e che non prende, che scavalcano la volontà di chi i luoghi li attraversa e li vive, e che quindi e quindi vuol dire lottare per l'autodeterminazione, diciamo, dei territori e degli spazi. Certo. E secondo me è un po' questo il punto che collega questi due ambiti di lotta, che possono sembrare lontani, ma in verità non lo sono. In tantissimi casi, in tante situazioni, in tanti contesti, vediamo come le decisioni che toccano l'ambiente e quindi la vita in generale hanno dei precisi scopi, che siano economico, finanziari, produttivistici, quindi capitalisti ovviamente, e propagandistici. Ecco, infatti tu giustamente dicevi, cioè adesso tu giustamente citavi il produttivismo, nel senso che adesso poi ovviamente è tutto un po' intrecciato, quindi come dire, il produttivismo, il capitalismo, l'antifascismo, eccetera, eccetera, però indubbiamente, come dire, è una decisione non partecipata presa da delle elite che sostanzialmente poi va a ricadere su tutti, no? Esattamente, esattamente. Quindi prendersi cura del territorio poi diventa un modo anche per costruire il proprio territorio, diciamo, nel senso esatto. Troppo centrico adesso, e questo è un campo minato, perché adesso dico costruire però e allora appunto quello che, perché effettivamente la, come dire, l'esperienza di ecologia politica da questo punto è molto interessante, nel senso che segue tutta una serie di tematiche e prova anche a dargli una lettura comune, no? Spesso, diciamo, parlare di questo vuol dire anche parlare magari di beni comuni, di risorse a disposizione di tutti e contemporaneamente molto fragili. Esatto, sì, l'ecologia politica fa proprio questo, diciamo, cerca di connettere le tematiche legate alla crisi ecologica, alla crisi ambientale, con una crisi sociale evidente che passa chiaramente per il lavoro, e quindi per tutte le tematiche legate al sistema economico in cui ci troviamo. E in generale questi due ambiti riguardano ovviamente la salute e la vivibilità, mettendole al centro di tutto, ecco. Prima del profitto, sicuramente. Esattamente, prima del profitto. Decisamente prima del profitto. Esatto, prima e oltre il profitto. Ottimo. E niente, a questo punto noi ti chiederemmo anche se magari c'è qualche esperienza adesso recente, magari c'è stata recentemente una biciclettata che ha toccato anche alcune lotte, diciamo, della zona di ZAM, e poi ne parleremo in seguito anche con alcuni dei protagonisti. Tu c'è qualche cosa che ci vuoi raccontare? Per esempio, so che avete seguito anche la questione di Bresso, piuttosto che altre che ti vengono in mente particolarmente. Sì, sì, esattamente, perché poi è nelle esperienze pratiche, nel vivere le lotte di questo tipo, e poi si vede esattamente questa connessione in senso generale. Ora, per non volendo cadere nell'ovvietà, però ad esempio la pandemia e la situazione pandemica in cui ci troviamo ci ha dato modo esattamente di connettere, di vedere, di parlare di come la crisi ecologica e le crisi sociali si connettono e poi determinano la vita di tutte. Noi come Ecologia Politica ci siamo affiancati alla lotta No Tav spesso e volentieri, e ultimamente nell'ultimo anno alle lotte portate avanti a Brezzo nell'ambito della costruzione delle vasche di laminazione, che sono un'altra situazione in cui si vede come come gli interessi, insomma, delle elite poi vadano a incisare sulla vita di tutte e tutti. Brezzo è una realtà cittadina di periferia che è stata presa come luogo risolutivo, tra i luoghi risolutivi del problema delle esondazioni del Seveso, che chi, per chi vive a Milano, insomma, sono in certe parti di Milano sono ben note, e il sindaco attuale e prossimo alle elezioni ha pensato bene di cercare di risolvere questa situazione, cioè la situazione, diciamo, della zona Niguarda, dove le esondazioni sono più frequenti e più dannose, andando a mettere sotto casa dei brestesi e delle brestesi una grandissima vasca di laminazione, grande ma non troppo grande, perché come dirò non contiene neanche tutta l'acqua che poi esonda dal Seveso, che è un'acqua piena di rifiuti tossici, di rifiuti pericolosi che vengono sversati nel Seveso da quasi 1500 discariche abusive. La situazione ovviamente che si verrebbe a creare con la costruzione di questa vasca di laminazione, quindi una vasca a cielo aperto dove si riversano tutte queste acque, sarebbe una situazione estremamente dannosa, in quanto è a poche centinaia di metri da un super complesso di condomini che ospita qualche migliaia di residenti. E ovviamente una situazione che ci fa vedere poi in tutti i suoi dettagli, ci fa vedere come la propaganda necessaria alla campagna elettorale viene prima di quelle che sono i dati reali e le reali soluzioni che possono essere prese in considerazione per risolvere il problema Seveso. È un problema serio, in quanto il Seveso è tristemente noto per essere tra i fiumi più inquinati d'Europa, con come ho detto migliaia di discariche abusive, e come sappiamo il problema delle esondazioni deriva proprio dalla presenza sul fondale, sul letto del fiume, di rifiuti anche molto ingombranti, che vanno a ridurre la portata del fiume e quindi a farlo esondare. La soluzione che noi abbiamo sempre portato avanti e continueremo a portare avanti come prima soluzione per un problema che riconosciamo essere reale, perché non, quello delle esondazioni non è un problema da poco, la soluzione per noi ovviamente è quella della bonifica del fiume. Un problema che però ovviamente, dato che non è stato preso in considerazione, è più dispendioso sia in termini di tempo che in termini economici, e che quindi si opta e hanno optato per una risoluzione diffusa lungo il Seveso, con 4 o 5 vasche di laminazione che vanno a cercare di arginare questo problema. Noi sappiamo, dato che sono state fatte ormai da tempo, dato che quello delle vasche di laminazione è un progetto ormai di lunga data, sappiamo che oltre alle numerose soluzioni alternative, questa soluzione in particolare non andrebbe a risolvere il problema, dato che le vasche in tutto hanno una portata di poco più della metà della quantità di acqua che il Seveso non riesce a contenere in certe fasi, e che quindi si determina proprio per essere una soluzione propagandistica, una mezza soluzione che tra l'altro ha delle controindicazioni notevoli, perché quest'acqua è stata come ci è stato detto dalle varie analisi fatte, è piena di fitofarmaci, metalli pesanti, mercurio, nichel, cromo esavalente, cioè tutte cose che possiamo immaginarci che effetti hanno sulla salute delle persone che abitano lì intorno e che ovviamente le respirerebbero in continuazione. Questa è per noi ovviamente una cosa inaccettabile, senza pensare al fatto che soltanto che quando noi abbiamo iniziato a interessarci a Bresso, ormai a agosto dell'anno scorso, l'abbiamo fatto perché insomma la popolazione si stava particolarmente indignando per l'inizio dei lavori che comportavano quello che è un disboscamento a tutti gli effetti, e a quell'epoca erano stati appena tagliati 4 ettari di alberi dal Parco Nord, in un periodo tra l'altro in cui neanche la legge lo permetterebbe, perché è un periodo del periodo di nidificazione, quindi particolari specie protette che non possono essere toccate in quel momento, ma poi con un danno ecologico gigantesco, in una situazione dove sappiamo bene non possiamo permetterci di tagliare neanche un albero, ecco. No, certo, poi questa sembra essere diventata la nuova politica green del comune di Milano, è tagliare alberi in ogni caso, sempre, in qualsiasi dubbio. Progetto, nel dubbio tagliali. Sì, tra l'altro promettendo di piantarne qualcuno da qualche altra parte, pensando di poter sostituire un bosco trentennale come certo. quello che... come quello che hanno distrutto con degli alberi sugli spazi traffico delle strade. Sappiamo bene che non può essere così. Gli alberi ne vanno piantati, ma senza tagliarne nessun altro, ecco. Esatto. Sì, questo ai noi è un tema che ricorrerà in altre vertenze della puntata di oggi, certo. Nel senso che, come immaginerai, non... come dire, questo è un grande classico. Tra l'altro, appunto, il Seveso, per chi non lo sapesse, arriva da una città, Seveso, che... come dire, è già stata in passato luogo di una drammaticissima sì. crisi ecologica, ci sono state sversate una cifra inverosimile di diossina e in generale di prodotti super nocivi, quindi insomma, come dire, la storia si ripete e rischia di ripetersi, soprattutto se non prendiamo gli adeguati provvedimenti. Esatto. Senti, noi ti ringraziamo, direi. Tu hai qualche cos'altro per infastidirlo, Greta? No. Allora, niente, grazie. Ti ringraziamo e ci sentiamo presto. No, a meno che tu non abbia cos'altro da dire. Grazie mille a voi, no, grazie mille dello spazio. Vorrei farci un po' di pubblicità esatto, bravo. Che quello ormai è diventato importantissimo. Ma ai noi. Per questo. Seguiteci sui social come Ecologia Politica a Milano, ma non solo, siamo in tante altre città, e come Best Ecoattiva è una realtà quasi neonata e che ha bisogno del supporto di tutte e tutti, e quindi facciamoci pubblicità. Ma esatto, ma soprattutto non solo seguiteci sui social, ma venite anche all'iniziativa, giusto? Nella vita reale, esatto. Vediamoci nella vita vera. Va bene, grazie mille. Grazie a te. Ciao, grazie. Ecco, allora noi ovviamente ringraziamo il nostro primo ospite della puntata, che ha un po' aperto le danze. E, tra l'altro, io che il problema mi sento di fare una chiosa finale e poi mettiamo dell'altra musichina. Non per chiudere quello che ha detto ovviamente il compagno, che è stato particolarmente esaustivo, però secondo me una delle cose che andrebbe sottolineate di quello che diceva è che effettivamente molto spesso, soprattutto io l'ho sentito spessissimo nel caso per quanto riguarda il Seveso, cioè quando venivano portate delle critiche o delle perplessità rispetto ai processi appunto di vasche di laminazione, di risistemazione decisamente discutibile, eccetera eccetera, spesso la risposta anche da parte di altri cittadini era: vabbè, ma allora è meglio l'esondazione. No, evidentemente non è meglio, il punto è proprio questo, cioè che essere antifascisti, lottare per il territorio vuol dire evidentemente prendersene cura, ma vuol dire anche sottrarsi, secondo me, a delle opzioni che non sono le uniche. Cioè, ripensare a un discorso di questo genere vuol dire: non è meglio l'esondazione, ma non dobbiamo essere d'accordo necessariamente su questa cosa. Cioè, noi possiamo pensare che ci sia una terza sì. via, che è più sostenibile, che è più funzionale, che è più rispettosa di chi ci abita, che siano esseri umani o animali e o piante, che sia più costosa, ma che raramente cazzi, infatti viene presa in considerazione dalle istituzioni, cazzi, infatti, quindi, come dire, secondo me è un po' anche quello che fra le altre cose evidentemente io mi porto a casa da questa chiacchierata, è che vuol dire veramente imparare a uscire da quelle che sono, come dire, le opzioni previste da una società fatta così. Cioè, noi siamo un'altra cosa. Certo, ma anche sì, mettere in discussione, non per forza accettare passivamente questo progetto o mille altri progetti, mettere in discussione, esserci, vivere il territorio e tutti insieme capire che ci possono essere anche altre opzioni valide. Assolutamente, sono d'accordissimo. Mettiamo un'altra musica? Allora, dai, mettiamo una musichina, prendiamo gli unici italici che ho messo nella selecta di oggi, perché giustamente si faceva riferimento al percorso di ecologia politica seguito a lungo la lotta contro la TAV, quindi la lotta valsusina, e quindi noi un po' con questa cosa da post-adolescenza mia, che Greta era ancora giovane, maledizione, la post-adolescenza mia, mettiamo Stop That Train, che è un pezzo dei 99 Post, appunto, che in realtà è una rivisitazione di un pezzo più vecchio, che racconta un po' quella che è la lotta contro la TAV, ma in generale la lotta contro un tempo che va troppo rapido e che non aspetta, come dire, le tempistiche dell'ambiente, ecco, mettiamola così. Stop that train, buri masagli, tu della vostra noi non ci occa. Stop that train, buri masagli, buri ma giustizia e libertà. Casa n'ha encontrat i fratres nostres s'han organitzat, no pius prou. comportamento no brutalità, we che sta significa globalità. Eccoci qua, siamo tornati, questa era Stop That Train dei 99 Posse e a breve chiamiamo il nostro secondo ospite, ma prima di farlo introduciamo un po' quello che è il secondo tema, diciamo, della puntata, perché abbiamo un po' pensato di ricondurlo in questa maniera, cioè cura e tutela del territorio vuol dire anche cura e tutela di chi ci abita. Quindi non solo, diciamo, ecologia, ma anche salute e sanità. Questo lo diciamo perché evidentemente questo aveva già senso prima, in un contesto pandemico come quello attuale, evidentemente non ha fatto altro che, darci ragione, antifascismo è anche prendersi cura appunto dei beni comuni, ma anche della salute pubblica, che è un bene comune, no? Un po' perché ognuno di noi ha il diritto di essere sano e vivere diciamo bene la sua vita, un po' perché la salute di uno è la salute di tutti, quindi questo ha maggior ragione in un contesto come questo, ma in generale. Quindi la seconda persona con cui abbiamo pensato di parlare è Gianni, adesso tra poco lo chiamiamo, membro del comitato sanità in difesa della sanità pubblica Milano Sud-Ovest e in difesa appunto del San Paolo e del San Carlo, e gli chiederemo insomma un po' come sta andando, cosa sta succedendo, perché è importante di parlare di sanità pubblica, e faremo anche, anzi lo faccio già adesso per lo spoiler subito, ma poi lo faremo dire anche a Gianni, faremo anche un rimando a una data che è quella di dopodomani, che prevede una mobilitazione a livello regionale e milanese, evidentemente a un anno dall'inizio della pandemia. A questo punto proviamo a chiamarlo, se i nostri possenti mezzi, vediamo se ci risponde ad un numero che non conosce. Pronto? Pronto, ciao Gianni, ti chiamiamo, siamo ciao. Con Greta, ti chiamiamo da ZAM. Sì. Allora, intanto benvenuto e grazie per la disponibilità. E, niente, appunto, noi abbiamo un attimo iniziato ad introdurre il tema, ma lasceremo poi a te raccontarci un po' di quello che sta succedendo, diciamo, rispetto alla zona sud-ovest, ma in generale all'ambito della sanità e delle lotte per una sanità pubblica. Sì. Lo dico, facciamo appunto una piccola introduzione che abbiamo già fatto, in virtù del fatto che appunto stiamo un po' raccontando come la lotta per una società della cura, per una salute, per una sanità pubblica e gratuita per tutti e tutte, è, diciamo, imprescindibile per chiunque si definisca antifascista. Sì. Allora, intanto ti chiederei di raccontare un po' cosa sta succedendo, quali sono le vertenze in questo momento diciamo da parte del comitato e che cosa vuol dire lottare per una sanità pubblica e per tutti, e questo in che termini, quindi rispetto a, come dire, sia alla tutela delle strutture già esistenti, ma anche per una nuova riampiamento del settore, diciamo, della territorialità, che invece sta un po' crollando. Sì, da anni ci stiamo battendo perché gli ospedali pubblici non vengano chiusi. Nella zona sud-ovest c'è in pratica l'ospedale San Carlo vicino a San Siro e l'ospedale San Paolo vicino alla Barona. Questi due ospedali pubblici negli anni non sono stati ristrutturati, sono stati lasciati andare dalla regione Lombardia in modo che poi potevano chiuderli. Per cui abbiamo iniziato a raccogliere le firme dei cittadini. Questo non è andato a buon genio della direzione dell'ospedale, per cui si è visto proprio un metodo autoritario che in pratica non ci permetteva di raccogliere le firme, per cui ci veniva vietato di mettere i banchetti all'interno dell'ospedale per raccogliere le firme contro la chiusura di questi due ospedali. Cioè, è un fatto questo, appunto, che va verso una direzione fascista, no? Assolutamente. Che impedisce in un luogo, diciamo, pubblico, perché sono ospedali pubblici, per cui non è proprietà del direttore generale o di qualcuno, per cui tutti, diciamo, i cittadini devono usufruire di questa struttura e poter fare all'interno anche dei banchetti per raccogliere le firme, per fare informazione e per fare, diciamo, controinformazione. E questo ci è stato più volte impedito con l'arrivo delle forze pubbliche, quindi della polizia e delle guardie interne, che volevano che smobilitassimo, diciamo, il banchetto. Per cui questo è stato il primo atto, diciamo, fascista di una direzione che impediva a cittadini e lavoratori di poter, diciamo, raccogliere le firme e manifestare all'interno della struttura. Nonostante questo, noi siamo andati avanti e comunque abbiamo fatto opposizione sempre a queste minacce, a questi tentativi della polizia di farci togliere i banchetti, per cui abbiamo raccolto alla fine parecchie firme di cittadini che invece partecipavano. I cittadini non erano impauriti di noi, cioè non, per cui partecipavano e firmavano, diciamo, la petizione. Per cui questo è stato, diciamo, ha avuto un buon esito da parte dei cittadini. Dopodiché vi è stato anche negli anni il tentativo di reprimere i lavoratori, cioè nel senso che oggi abbiamo lavoratori che sono sotto consiglio di disciplina per aver, diciamo, manifestato il loro parere sulle scelte nei reparti, per cui sono stati vessati e mandati sotto consiglio di disciplina, per cui non si parla di, diciamo, errori professionali o diciamo dovuti al lavoro, per cui non è che uno viene mandato sotto consiglio di disciplina perché sbaglia nella sua professione, ma perché dice le cose che non vanno all'interno della struttura, le racconta ai sindacati, le racconta, diciamo, ai comitati che lavorano in questo senso, e per questo vengono, diciamo, puniti, vengono vessati, e questo è un altro modo fascista delle direzioni che impediscono, diciamo, la libera circolazione delle idee e l'informazione. Per cui dica. No, no, infatti dicevo, oltretutto ci sono stati, diciamo, nell'ultimo, nel 2-3 mesi fa, poi fino alla mobilitazione che appunto ha portato allo sciopero a dicembre, addirittura c'era chi, come dire, riportava infermieri e operatori che riportavano le situazioni interne agli ospedali, che si presentavano, diciamo, in televisione in totale anonimato, quindi con la voce camuffata e il viso coperto, cosa che è, sinceramente, già di per sé sarebbe scandalosa a prescindere. Poi abbiamo visto che appunto quello che succede all'interno degli ospedali è di fatto una repressione, sia dal punto di vista, diciamo, delle libertà sindacali, sia di quanto in generale ha a che fare con la qualità del lavoro di chi lavora, ma anche dei suoi risultati, che insomma effettivamente è autoritario a dir poco. Sì, è proprio questo. Cioè, nel senso, generare paura. La paura, il fascismo su questo vive, no? Sul generare paura. Se uno ha paura, se io immetto la paura nelle persone, poi queste non riescono ad agire. Per cui è proprio sulla paura, ed è assurdo proprio che si sia generata tutta questa paura, perché poi le persone, appunto, cioè incapuzzate per poter parlare, sono qui, sembra proprio essere tornati indietro di molti anni. Perché poi è questo che perché le idee sono importanti, le idee delle persone che ci lavorano dentro, e loro lo sanno. Per cui facendo paura impediscono che queste idee si sviluppino in modo da cambiare le cose. In questo hanno paura, perché più idee, più persone che mettono idee sulla struttura, e più c'è possibilità di cambiamento. Senza idee, senza, diciamo, la possibilità di parola, non c'è possibilità di cambiamento. Per cui loro lo sanno e agiscono in questo modo autoritario per, appunto, fare paura sulle persone che ci lavorano dentro, ma non solo sulle persone, anche su quelli che rivestono cariche sindacali. Cioè, non si limitano alle persone, ma investono in modo da far capire alle persone che anche chi li rappresenta, diciamo, è sotto attacco, per cui di stare attenti, perché anche queste persone possono essere, diciamo, messe sotto consiglio di disciplina o altre cose, per cui, cioè, danno questi messaggi, no? Cioè, proprio alle persone, in modo che non si rivolgano ai sindacati, diciamo, che fanno opposizione, perché altrimenti rischiano poi di essere anche loro, diciamo, travolti. Certo. Questo è gravissimo, devo dire, in assoluto è veramente grave ed è drammatica la situazione, ed è assolutamente fondamentale che, come dire, al ricatto della dirigenza di Stoccolma, e in assoluto della dirigenza sanitaria, che si stanno muovendo abbastanza tutti nella stessa direzione, come dire, ad opporsi a questo ci siano non solo i lavoratori, ma anche, appunto, a maggior ragione, considerata la situazione, attivisti e non, che da fuori solidarizzino e diano forza anche a questo tipo di contesto. Io ti farei un saltino, diciamo, cambierei leggermente argomento, perché a questo punto, prima di chiamarti, io avevo anticipato che fra 2 giorni, quindi sabato 20, ci sarà una mobilitazione, diciamo, a un anno dall'inizio della pandemia, quindi dall'individuazione del paziente 1. Quindi in realtà io volevo, diciamo, ampliare un po' il discorso e quindi chiederti, noi spesso parliamo della sanità pubblica come bene comune, no? E in questo anche, tutto sommato, sta l'antifascismo di questa lotta. Cioè, parlare di sanità vuol dire parlare di un servizio che sia a disposizione di tutti in maniera gratuita, in maniera territoriale, quindi vicina alle necessità della popolazione, e che sia tra l'altro di qualità, perché giustamente quello che dicevi tu prima era la situazione in cui hanno lasciato, cioè il progressivo declino delle strutture, poi depotenzia anche la volontà di, la qualità dell'esperienza che i cittadini e le cittadine hanno con la sanità pubblica, giusto? Certo, il problema è che negli anni non solo hanno lasciato andare le strutture pubbliche, ma hanno rafforzato le strutture private. In Lombardia oggi in pratica il 50% della sanità è gestita dalla sanità privata, che galoppa, perché costruisce nuove strutture e va avanti. Ad esempio, vicino a San Carlo, in zona Expo, stanno costruendo il nuovo Galeazzi e sono già al decimo piano, per cui sarà una struttura privata che assorbirà utenza pubblica, nel senso che tutti si rivolgeranno a quella struttura, e quella struttura è stata il terreno è stato venduto dalla regione al Galeazzi per fare quella struttura. Allora, se la regione voleva rafforzare la sanità pubblica, visto che aveva i terreni, poteva costruire lì, certo, una struttura pubblica, invece ha preferito dal privato, per cui il rischio, specialmente in Lombardia, in altre regioni un po' meno, ma in Lombardia il discorso è che questi stanno rafforzando le strutture private, per cui un domani la sanità privata assorbirà gran parte della sanità pubblica. E questo è dovuto anche a una legge che nel 1992 ha definito la sanità un'azienda, per cui il discorso è che definendo in questo modo la sanità pubblica, di fatto ha aperto le porte poi alla sanità privata, e dal 97, con l'avvento di Formigoni in Lombardia, la cosa ha avuto un canale privilegiato rispetto al pubblico, per cui anche la manifestazione del 20 è per ricostruire una sanità pubblica che non sia mercificata. Il discorso è quello, perché oggi la sanità è mercificata, per cui chi ha più soldi gestisce gran parte della sanità, e questo si sono costruite molti comitati che la pensano in modo diverso, per cui la manifestazione anche del 20 sotto la regione è proprio dar voce a questi comitati che si sono raggruppati in regione, per poter poi magari costruire un movimento che vada invece a discutere il discorso della sanità e mettere al centro la sanità pubblica rispetto a quella privata. Quindi invitiamo tutti e tutte sabato alle 10 di mattina sotto il Palazzo della Regione. Sì. Allora Gianni, noi ti ringraziamo. Ma di niente. Tu abbia qualcos'altro da aggiungere, sei stato assolutamente chiarissimo, e quindi noi ti ringraziamo per la disponibilità e ti salutiamo. Grazie. Ciao Gianni. Grazie. Ciao. Ciao. Ecco, la situazione è abbastanza drammatica. Sì. Gianni non l'ha detto, ma ha avuto, diciamo, ha lavorato a lungo all'interno delle strutture, per l'appunto degli ospedali pubblici, e effettivamente quando raccontano lui che è uscito da poco, ma anche quando i lavoratori e le lavoratrici del San Paolo e del San Carlo raccontano le dinamiche interne, è veramente raccapricciante, devo dire, veramente raccapricciante. Ci sono tutta una serie di persone che sono state messe in condizioni veramente di non poter come dire, lavorare, per non avere sottoscritto degli accordi che sono scandalosi. Aperta parentesi, stiamo parlando fra gli altri di accordi che prevedono la possibilità di fare turni da 12 ore per gli infermieri, e quindi, come dire, è una cosa che sia per chi lavora è infernale, ma anche per chi viene curato, insomma, è tutt'altro che, cioè, io dopo uno che c'ha 12 ore di lavoro stressante e stancante alle spalle, credo che se pecca un po' di lucidità, insomma, non ci sia niente di impensabile. E quindi niente, al grido di la salute non è una merce, la sanità non è un'azienda, e noi vi invitiamo tutte sotto la regione il 20. E a questo punto io direi ci mettiamo un'altra musichina. Yeah. Dai, e poi chiamiamo Anna. Allora, mettiamo i Depeche Mode o i Jamiroquai? Dai, mettiamo del Jamiroquai, va bene, ci sto. Allora, questi sono i Jamiroquai, e come dire, il titolo è abbastanza significativo perché si chiama Emergency on Planet Earth. Now Ciao, siamo tornati perché questa traccia è in fida e finisce con 10 secondi di silenzio e quindi io stavo guardando che mancavano 13 secondi, ma in realtà è finita la canzone. Nel frattempo salutiamo il buon Sharbasio, bella, che è venuto a farci compagnia momentanea. E niente, quindi abbiamo sentito le parole del Gianni, che è stato, diciamo, prezioso nel suo raccontare una cosa quasi distopica, sì. In cui i lavoratori, per dire che non sta precisamente andando tutto come deve, si devono nascondere a parlare. Guardare. Cioè, pazzesco, comunque, c'è cosa dei testimoni, la protezione testimoni per uno che sta parlando degli ospedali pubblici, che un lavoratore di ospedali pubblici è veramente scandaloso a dir poco, cioè non sto dicendo scandaloso, ma non regge, no. Perché vorrei dire un sacco di parolacce. No, di quanto sia diventata la miglior merce la salute. Pazzesco, proprio pazzesco, il miglior, esatto, profitto. Tra l'altro l'abbiamo già detto migliaia di volte, l'eccellenza lombarda, grazie Maroni, grazie Formigoni prima di lui, grazie adesso Attilione che hai trasformato un disastro tutto quanto. E niente, quindi in realtà per l'appunto rimandiamo all'incontro presidio di dopodomani sotto la regione, l'orario è mattutino, ma insomma tanto c'avete il coprifuoco, quindi potete tornare a casa come Cenerentola, non fate i bagordi. E a breve noi chiamiamo Anna. Di Anna abbiamo già parlato, sempre bene, perché è impossibile non parlarne bene. E è una compagna che in realtà fa parte di svariate lotte, fra cui anche quella del, diciamo, di cui ci ha parlato Gianni, San Paolo e San Carlo, ma in realtà noi la chiamiamo perché all'interno del quartiere, diciamo, Stadera Chiesa Rossa, sì. Recentemente si sono animate diverse vertenze a tema ambientale, è nato questo comitato difesa ambiente Zona 5, sì. E, di cittadine e di cittadine che stanno appunto, come dire, svolgendo un ottimo lavoro, tra l'altro praticamente quotidiano, sì. Visto che gli appuntamenti ce ne sono talvolta anche più di uno al giorno. Tra l'altro il comitato che fa parte, è entrato a fare parte della rete dei comitati, forse anche questo potremmo chiedere ad Anna, nel senso che a livello cittadino si sta iniziando a dare una sorta di coordinamento per quanto riguarda le vertenze ambientali, e quindi chi meglio di lei per parlare un po' del tema che abbiamo affrontato oggi. Quindi adesso noi proviamo a sentirla, vediamo se ci risponde o se la disturbiamo. Vediamo un po'. Anna, siamo Chiara e Greta da ZAM. Ciao Greta. Allora, ciao, intanto ti anticipo, perché magari non stavi seguendo, che la telefonata prima della tua è stata Gianni, con cui abbiamo parlato. Ah, esatto, riuscito a beccare Gianni, meno male, dai. Siamo riusciti, quindi abbiamo parlato anche un po' con lui del tema della sanità. In realtà, come ti anticipavo, ecco, abbiamo già detto che tu sei onnipresente e immancabile e quindi potresti parlare di un sacco di cose, però nello specifico quello che volevamo che tu raccontassi sono, come dire, le due vertenze che hanno preso piede in questi due anni, e lo vorremmo fare, come dire, dal punto di vista di un antifascista. Cioè antifascista ti sei spesa e ti spendi all'interno di queste due vertenze, e quindi ti chiedevamo un po' di raccontarle, così per chi non le conosce, e un po' qual è anche il senso, diciamo, che tu attribuisci. Va bene. Come funziona? Parlo io o andiamo a domande? No, beh, se vuoi iniziare a raccontarci un po' tu, intanto appunto uno è il, come dire, quello intanto sveliamo un arcano. Tu arrivi da un incontro con il comune per quanto riguarda la questione del benzinaio, sì. Esatto, del distributore. Mm. Allora, questa qui io parlo anche a ruota libera, se vuoi. Vai, parla, infatti. Mm. Va bene, mi piace questa iniziativa perché chiaramente l'antifascismo oggi si vive sul campo, i nostri partigiani hanno dato la vita per noi, partigiani e partigiani. Due anni fa ero intervenuta pure in consiglio di zona, ti ricordi? Cioè, avevamo fatto una roba sulle donne della resistenza, perché chiaramente le donne sono molto importanti. E comunque in queste battaglie invece in cui ora sono attiva, che comunque fanno capo al Comitato Difesa Ambiente Zona 5, che me fa parte della rete dei comitati della città metropolitana di Milano, che vede praticamente che un po' spaventa quando in qualche riunione facciamo anche riferimento alla rete dei comitati, perché si stanno cominciando a preoccupare che ci stiamo organizzando tra di noi. E quindi diciamo adesso la difesa della libertà e dei nostri diritti passa attraverso tutte le lotte locali e tutte le cose che non vanno e che uno vede intorno. Quella del distributore è nata nel 2018 quando ci siamo resi conto che il comune aveva dato l'autorizzazione a costruire sotto casa nostra un distributore vicino ai pozzi di trattazione dell'acqua potabile, cosa che è espressamente vietata dalla legge ambientale del 2006, articolo 94,5, che dice che è proibito conservare dei materiali pericolosi entro i 200 metri dai pozzi di captazione dell'acqua potabile. Avevamo provato per vie amministrative, parlando in municipio, parlando al comune, ma non si era arrivati a niente, quindi siamo stati costretti a fare il ricorso al TAR, che in primo grado abbiamo vinto. Però questo comune hanno fatto appello e per il momento questo appello pende. Le notizie ultime sono che potrebbero, anziché fare un distributore di benzina e gasolio, potrebbero fare un elettrico e diesel, ma ci siamo riuniti come comitato e abbiamo comunque deciso che, siccome la zona è molto trafficata, quindi a Rimissaia ci sono ben 12 corsie davanti casa nostra, zona una bella fetta di verde, era stata tolta per far posto al parcheggio vicino a Piazza Beato Grazia, la metro. Quindi praticamente quest'altro fazzoletto di 2000 metri quadri di verde lo vorremmo conservare proprio come vitale, come necessario. E questo è quello che abbiamo detto anche a Granelli, con il quale ci siamo incontrati oggi, quindi abbiamo espresso il nostro desiderio che abbiamo bisogno proprio di verde e vediamo come va a finire. Intanto penseremo a qualche iniziativa, domenica con la bicicletta abbiamo organizzato la crisi abbiamo fatto una tappa anche sotto al distributore, giusto perché è un punto importante che ha unito parecchi abitanti della zona. Abbiamo fatto appunto nel corso del tempo pranzi, cene, per il momento ci è costato 14.000 euro, quindi non è uno scherzo. Poi da non tanto tempo invece è venuto fuori che in zona, oltre all'8-1 nel parco di Cinello, hanno fatto questo progetto che dovrebbe arrivare fino all'8-3, però l'8-1 era passato in silenzio in quanto l'associazione del parco di Cinello c'era dentro e pensavamo che venisse bene, forse sicuramente erano convinti anche loro che venisse meglio di come risultato. Invece se adesso uno va a guardare i lavori dell'8-1 si rende conto che hanno cementificato, che anche se è calcesso, che era stabilizzato, sembra proprio cemento, comunque hanno tolto una fetta di verde, hanno costruito delle tettoie, degli orti con delle case enormi, le luci accese tutta la notte, mentre la cascina Campazzino va in rovina nella maniera più assoluta. Addirittura neanche soltanto la parte di cascina, diciamo, che si poteva recuperare come tettoia, anziché fare una nuova, potevano almeno sistemare quella parte, invece niente. E quindi adesso davanti al progetto di un secondo lotto ci siamo comunque molto preoccupati, perché la situazione addirittura era prevista peggio di quello che è venuto fuori dal lotto 1, quindi con luci a led per terra, ancora strade in calcestre, parecchio strade in calcestre, 1,5 metri, 2 metri, 3 metri. Quindi diciamo questo qua delle luci proprio non va bene. Il parco agricolo di Cinello è un parco agricolo e pane deve rimanere. Uno, se vuole andare in un parco urbano, va a passeggiare altrove. Questo parco qua, con le scarpe vecchie che si impagnano, te le pulisci quando torni a casa. Il bello del parco è che è naturale, ci sono gli uccelli, tanta di fauna tra i rami, cespugli. A maggio abbiamo le lucciole che brillano, che spero di vedere ancora per tanti anni. E invece purtroppo con tutte queste luci che vogliono mettere non so come andrà a finire. Certo, noi abbiamo provato a dire quello che vorremmo, e quindi noi vorremmo uno che non tagliassero i 156 alberi previsti come taglio lungo il cavo, che proprio non vorremmo, perché lì proprio questi che nidificano gli uccelli e quindi gli insetti, quindi quelli proprio non vorremmo toglierli, e di questo siamo riusciti a ottenere un sopralluogo congiunto tra tecnici del comune e alcuni che abbiamo preso noi dei cittadini, e cercheremo di salvare quanti più alberi possibile. Per le luci pure spero di riuscire a far qualcosa, perché comunque sarebbe una roba tremenda. In più io che affaccio sulle luci del primo lotto, che sono tremende da vedere di notte, però mi rendo conto che adesso che c'è lockdown ancora nessuno ha scoperto che è un posto dove ci si può mettere anche di notte, che tanto c'è la luce per bivaccare in tutti i modi possibili e immaginabili, quindi forse anche solo per quello non va bene, ma soprattutto non va bene per gli animali, e in più non va bene perché un parco agricolo deve essere lasciato tale, naturale, senza luce assolutamente. Quindi no alle strade. E poi una roba pure molto importante è quella dei manufatti, perché praticamente vogliono anche mettere un barbecue, tanti orti, un parcheggio, a volte sì, a volte no, che lo fanno comunque, cementificheranno ancora qualche cosa, e non va assolutamente bene. La cosa che noi abbiamo chiesto al comune nei vari incontri che abbiamo avuto è di destinare i soldi del progetto alla ristrutturazione della cascina Campazzino, per sottrarla alle mani di chi dopo al bando che invece aveva previsto il comune. Chiaramente se si fa un bando per la ristrutturazione, chi lo vince? Chi offre più soldi? E invece magari ci sono dei giovani, delle associazioni che potrebbero, una volta ristrutturata la cascina con i soldi del comune, poter mettere a disposizione di tutti i cittadini con dei progetti sicuramente magari molto più validi di quelli di qualche associazione che dopo se la giudicherà, e che però dopo, avendoci messo dei soldi, vorrà trovare il suo tornaconto, e quindi non sarà più messa a disposizione dei cittadini, che è la cosa che noi vorremmo più di tutto. Adesso speriamo di riuscire in qualche cosa, non ci arrendiamo, continuiamo ad andare avanti. No, no, quello si sente, si vede, cioè, quello sicuramente. Ma infatti raccolgo alcune delle cose che dicevi tu, perché in parte risuonano con altre che sono già state dette prima. Una di queste è sicuramente la partecipazione, nel senso la effettiva partecipazione dei cittadini e delle cittadine, degli abitanti e delle abitanti al processo innanzitutto di costruzione e di scelta di quello che deve o non deve stare. E l'altra cosa che mi risuonava molto, noi avevamo aperto con una citazione che riguardava il fatto che ecologia volesse dire anche mettere in discussione un po' la gerarchia secondo cui l'uomo sta sopra e tutto il resto sta un po' sotto, certo. E in questo direi che decisamente, come dire, entrambe le lotte, ma in particolare quella del Ticinello, si è molto si è molto spesa in questo senso, no? Quindi la questione certo. della cioè dire meno lucciole, più lucciole meno LED, vuol dire soprattutto anche dire l'essere umano ha uno spazio, ma come dire, non può salire sopra gli altri, no? Certo, certo, abbiamo raccolto quasi 9.000 firme sulla petizione. Ecco. Adesso quando arriveremo a 10.000 prepariamo una cartolina da mandare al sindaco con il numero delle firme raccolte. Con dei accetti anche. Senti, niente, no, io sono entusiasta, ovviamente tu hai detto tutto quello che secondo me valeva la pena di dire, quindi diciamo in generale un antifascista e una antifascista dovrebbero assolutamente agire tutte le volte, certo, certo, no? Sia alle commemorazioni sia tutto, però bisogna anche agire sul presente, sulle cose che non vanno bene oggi, altrimenti i partigiani sono morti in vano. Dobbiamo portare avanti dei principi che sono nati in quel momento lì, ma che adesso si devono collegare con la realtà delle cose esistenti. Perfetto, beh, perfetto. Io sì, sono entusiasta, sei stata assolutamente chiara ed efficace nella tua telefonata. Io ti ringrazio tantissimo e mando un abbraccio a te e a niente tutti. Commemorazione per Dax, esatto. Quest'anno, niente, peccato, niente commemorazione, vediamo, niente costello, aspettiamo quali saranno i nuovi risvolti, ma sicuramente quest'anno bisognerà assolutamente trovare il modo per farlo. Ci saranno comunque sì, tutta una serie di appuntamenti nel corso del tempo, verranno fuori un pezzettino alla volta, quindi ti aggiorneremo. Ci teniamo, perfetto. Grazie. Ciao, una ciao. Ciao Chiara, ciao. Ciao. Ciao voi due, ciao. E insomma, lei era Anna, io ho una stima e un affetto infinito per questa compagna. Ora potete capire perché. Ora potete capire perché. Io sono assolutamente, insomma, per fortuna si sta animando il quartiere veramente di una quantità di persone attente al... Attive. E attive vuol dire veramente non l'attivismo della domenica, vuol dire, anzi della domenica, del 25 aprile, il cosiddetto attivismo da 25 aprile che si scende in piazza a fare, cioè attivismo vuol dire tutti i giorni, vuol dire smontare pezzo a pezzo. Avete notato che sapeva a memoria tutta una serie di commi e leggi, non perché sia nata imparata evidentemente, ma perché come dire, lottare vuol dire anche una serie di sforzi sia di presenza che intellettuali veramente notevoli, e quindi niente, sì, vuol dire fare tutto il giro del Ticinello a controllare albero per albero col progetto in mano per vedere quale cosa andrà tagliato, vuol dire esatto. Proprio esserci e avere cuore di questa cosa, esatto, esattamente, no, ma infatti si vede, cioè traspare tantissimo la come dire, l'animo e la potenza che mettono nella rivendicazione, e quindi insomma devono essere un po' da sprone anche a chi si muove di meno per fare un pochino di più e quindi per arrivare un pochino di più. E cosa facciamo? Mettiamo l'ennesima traccia e poi a questo punto ci riserviamo il gran finale, l'esperto. L'esperto dice. Allora noi adesso, visto che parlavamo per l'appunto con Anna di Ticinello, di territorio che cambia, eccetera, eccetera, non possiamo che mettere i Depeche Mode in questo pezzo, direi degli anni 80 probabilmente, quindi... Adesso non vorrei dire una boiata, mi sembra che sia degli anni 80, tra l'altro della prima metà, e quindi una storia che, come dire, si racconta e si riracconta, e il titolo abbastanza evocativo è The Landscape is Changing, quindi il panorama sta cambiando, e noi ci ascoltiamo i Depeche Mode e poi torniamo. We'll be right back. sheep is crying. Thousands of acres of forest are dying. Carbon copies from the hills above the forest line. Acid streams are flowing ill across the countryside. I don't care if you're going nowhere, just take good care of the world. I don't care if you're going nowhere, just take good care of the world. Solution or the certainty? Can you imagine this intrusion of their privacy? 'Cause I don't care if you're going nowhere, just take good care of the world. I don't care if you're going nowhere, just take good care of the world. E siamo tornati dopo questa canzone di Depeche Mode, che non ho verificato di che anno fosse, e quindi rimarremo così nel dubbio. Voi fate finta, fate sì sì, se qualcuno sta ascoltando fate sì sì e non controllate mai. Poi ve lo dico dopo quando controllo. Se volete potete controllare, solo che dopo ho controllato di avere detto non una vaccata. E allora, dicevamo fuori onda io e Greta che siamo abbastanza entusiasti di chi ha parlato fino adesso. Sì. Sono stati tutti, il che mi porta a pensare che, come dire, spesso e volentieri essere attivisti, militanti, anche solo interessati, va fatto non meccanicamente, ma come dire, riflettendo sempre un po' su quello che si fa e su perché lo si fa, no? Quindi secondo me una delle cose che è uscita da queste tre chiacchierate è che, come dire, capire prima di tutto perché si fa una cosa è il modo migliore per iniziare a farla tendenzialmente e per farla meglio, tra l'altro, nel senso che devo dire il lavoro di tutti quelli che hanno parlato fino adesso è mirabile e si vede, come dire, cioè è assolutamente visibile che ci mettono la testa oltre che le mani e il cuore, che comunque servono, e la presenza che comunque serve. E quindi insomma, anche rispetto a questo, già che ci siamo, io farei uno spottino televisivo pubblicitario, nel senso che abbiamo parlato della raccolta firme, che evidentemente è solo uno dei milioni di modi per contribuire, ma per chiunque volesse andare a cercarla sulla pagina di ZAM, ma in realtà c'è anche un gruppo, appunto, Comitato Difesa Ambiente Zona 5, su cui sono recuperabili come dire, gli sviluppi e la raccolta firme che sta toccando, appunto, ha superato 9.000, e quindi per chiunque non l'avesse ancora fatto, insomma, è uno dei tanti modi, è uno dei modi più comodi, tra l'altro, quindi per quelli più pigri, cioè basta almeno quello click. Esatto, basta un click e fatelo. In generale, comunque, siateci, fate le cose, siate curiosi, guardatevi in giro mentre camminate, tirate sulla testa e vedete come cambia il vostro quartiere. Esatto, esattamente, tirate sulla testa dai telefoni, soprattutto quando passeggiate attraversando la strada e urtate la gente, e urtate con i vostri le persone gomiti. Vi odio, no, non è vero, però un po' sì. Un po' sì, un pochino sì. Allora, noi adesso ci siamo tenuti per ultimo un compagno che ne sa a pacchi, che è Andrea Staid, già antropologo, già docente di antropologia culturale presso la NABA, già autore per Milieu e altre svariate case editrici. Adesso noi fra poco lo chiamiamo per provare a tirare un po' di le fila di quello che ci siamo detti fino ad ora. Vediamo. Vai. Se vai, vediamo se ci risponde. Pronto? Andrea? Sì? Radio ZM. Per una volta non sentirai le voci fastidiose di Guglio e di Pica, ma che sono Chiara e Greta. Ciao. Bene, ciao, ciao. Ciao, allora, ti disturbiamo? Spero di no. No, dimmi, allora, ditemi. Noi, diciamo, ti facciamo una breve sintesi di quella che è stata la puntata fino adesso. Abbiamo parlato un po' di come la lotta ecologista è una pratica antifascista, e l'abbiamo fatto con dei collegamenti con diciamo dei compagni e delle compagne che fanno parte di comitati e di collettività ecologiste, e in realtà abbiamo parlato anche oggi di cura, e l'abbiamo fatto insieme ad un compagno che fa parte del comitato in difesa della sanità e della sanità pubblica in Lombardia, e in particolare delle strutture ospedaliere del San Paolo e del San Carlo. Ma noi a questo punto abbiamo dato fastidio a te, perché vorremmo provare a dare una lettura un po' più... Ah no, scusami, in tutto questo noi abbiamo aperto la puntata con una citazione non nostra, ma di una persona decisamente più intelligente di noi, che è Murray Bookchin, che appunto parlava di ecologia in termini di rifiuto della gerarchia dell'essere umano sugli altri esseri e della gerarchia in assoluto come dire, modo di strutturare la società. E quindi noi volevamo insomma, chiedere a te, che sei un antropologo in primis, oltre che, diciamo, sei un compagno in primis e poi anche un antropologo, ma ecco, anche, preferisco, volevamo un po' chiedere a te come, diciamo, come si intrecciano secondo te queste lotte, come, in che punti convergono, in quali non necessariamente, e poi in realtà avevo anche un'altra domanda, ma te la faccio dopo magari. Dai, perfetto. Beh, intanto grazie per la chiamata e per la, insomma, la domanda centrale, anche proprio per la mia riflessione etica, politica, di vita, oltre che di lavoro, di antropologia, perché chiaramente è vero, mi occupo anche di critica all'antropocentrismo e di ecologia sociale, quindi è una cosa che mi interessa sotto tutti i punti di vista che voi avete citato, quindi assolutamente una tematica che mi interessa e che cerco proprio di fare mia. Io credo che, come diceva un altro personaggio famoso per il movimento, l'ecologia senza la lotta di classe è giardinaggio, no? Questa altra frase famosa. Io ovviamente penso che sia una lotta completa, quella dell'ecologia, che chiaramente ha a che fare con la negazione del dominio della gerarchia, come dice Bookchin, e soprattutto che abbia a che fare anche con una questione di lotta di classe, cosa che io porto avanti anche nel mio piccolo con la questione del non mangiare gli animali, adesso non voglio certo. Prendere questa deriva, che per me non è una deriva ma è una cosa molto importante, però l'ecologismo deve anche fare conti con il discorso dell'antropocentrismo e quindi dell'uccisione di animali, che oltre a essere vite che muoiono, vite che non ci hanno fatto niente di male, mentre ce ne sono tante di vite che ci fanno male, che potremmo mangiare. A parte questa battuta, la questione degli animali è importante anche perché gli allevamenti intensivi della società industriale in cui viviamo producono parte dell'inquinamento e della distruzione del nostro ecosistema. E in più aggiungo la questione degli animali, secondo me è importante perché nel mio modo, ovviamente criticabile, ci mancherebbe altro, di vedere il futuro, di un futuro di mutazione culturale rivoluzionaria, è proprio quello in cui non ci pensiamo più uomini, e così rispondo anche alla sua domanda, uomini inteso come homo sapiens, specie, non uomini di genere maschile, uomini o donne, potremmo dire donne sapiens, al centro e che possono dominare il resto, cioè che ancora meglio. Quello che io penso che sia l'ecologismo sociale è proprio una negazione dell'uomo vitruviano che sta al centro e che può dominare tutte le altre specie, che siano esse animali o vegetali. E quindi quello che io mi sento di poter dire che è una proposta seria e profonda da un punto di vista politico e sociale è quella di un nuovo modo di vedere la realtà appunto rivoluzionata, che è quella di un uomo che si mette in relazione con le altre specie viventi, e questa non deve essere una cosa secondaria ma una cosa principale, anche perché ha a che fare con la critica al colonialismo e all'etnocentrismo e quindi al dominio dell'uomo e in questo caso anche uomo maschio bianco che ha devastato il pianeta, nel senso che moltissime delle popolazioni che sono state invase, colonizzate dall'uomo bianco, dall'Europa, in realtà avevano delle cosmovisioni che non erano come le nostre, che quindi non immaginavano l'uomo al centro, ma che proprio erano in relazione con le altre specie in un modo più orizzontale. E quindi secondo me una critica profonda al capitalismo va fatta anche partendo da questo, cioè da una critica all'antropocentrismo che sia ecologica in modo sociale, perché l'ecologia, slegata da una questione politica più profonda, a me personalmente non interessa, nel senso che il Green Deal, lo sviluppo sostenibile sono tutte, adesso non mi viene una parola migliore, prese per il culo che il sistema capitalista ci sta buttando davanti per sciacquarsi la coscienza e per continuare il discorso di uno sviluppo continuo, mentre il vero sviluppo per me adesso è proprio un contro sviluppo. Quindi questo è stato un po' prolisso, però la domanda era complessa e difficile, rispondere con due parole in modo radiofonico mi era praticamente impossibile. No, no, ma infatti sei stato chiarissimo. Tra l'altro mi viene in mente, rispetto ad una delle vertenze che oggi abbiamo incrociato durante una delle nostre telefonate, che è il progetto per quanto riguarda il Parco Agricolo Ticinello, e nel progetto appunto presentato dal Comune, che prevede un disboscamento, una serie di illuminazione a LED, un aumento delle strade carrabili, dei parcheggi, eccetera eccetera, nel progetto si faceva più volte riferimento all'aumento della fruizione del parco e alla valorizzazione del parco, e quindi, come dire, era già intrinseco in questo che il valore fosse un valore assolutamente umano, quindi che calpestasse ogni altra forma di vita evidentemente presente e ricchezza del parco, quindi come certo, dire... Poi capiamoci bene, questa cosa qui egoisticamente serve anche per salvare la nostra specie, cioè io non lo penso egoisticamente, ma il mio modo di vedere il mondo futuro e liberato è quello altruista, comunque solidale e legato al mutuo appoggio. Detto questo, però, anche chi non la pensa come me o come noi, mi verrebbe da dire, visto quello che ci stiamo dicendo, comunque per salvare se stesso deve proteggere l'altro, perché noi siamo un'entità integrata in quanto Homo sapiens, cioè noi interagiamo con le altre specie, cioè, e lo sappiamo bene, e il Covid diciamo che parla abbastanza chiaro di quello che abbiamo fatto a questo mondo, che restringendo sempre di più gli spazi del selvatico, il selvatico bussa le nostre porte in questi modi che non sono molto simpatici. No, effettivamente no. A questo punto io, siccome tu sei un super professionista e quindi noi possiamo anche alzare l'asticella dell'analisi, anche perché lo stai facendo in una maniera super chiara, quindi io di questa cosa ti ringrazio infinitamente, volevo provare a fare un esperimento, nel senso che oggi, pensando un po' a quella che sarebbe stata la puntata di oggi, riflettevo, diciamo, la direzionalità che abbiamo dato fino adesso è diciamo una freccina che dall'antifascismo va verso l'ecologia, no? Cioè, quindi perché un antifascista dovrebbe anche supportare le lotte ecologiste. Quello che volevo provare a fare adesso, e lo faccio in virtù di un articolo che ho letto, e spero di non fare una gaffe perché non vorrei che l'avessi scritto tu e sto dicendo un articolo che ho letto, sono passati diversi anni quindi non lo so, potrebbe essere tuo tra l'altro. Un articolo di merda. No, un ottimo articolo, però non vorrei citarlo come se fosse cosa di un altro, invece sto parlando con l'autore. Nel senso che in realtà anche da alcune delle conversazioni che abbiamo fatto oggi con i nostri ospiti, è venuto fuori come dire la partecipazione come metodo, e quindi come il prendersi cura del territorio vuol dire anche accorgersi e costruire insieme il territorio. E io questo lo volevo legare rispetto appunto a questo articolo che avevo letto tempo fa, che diceva come alle volte delle mobilitazioni abbiano tutta una serie di, si diano magari un obiettivo primario, ma che di fatto ci siano degli obiettivi secondari che in una qualche maniera prevalgono. E quindi nello specifico si parlava per esempio della lotta che in Italia ha fatto e continua a fare scuola, che è la lotta valsusina, e si diceva come per l'appunto nonostante fosse una comunità che si fosse riunita diciamo con l'obiettivo di fermare la TAV, poi nella costruzione di questa mobilitazione, di questo percorso, di questa comunità, di fatto la creazione di questa comunità che agiva insieme per la difesa del proprio territorio fosse non l'obiettivo che si erano dati innanzitutto, ma di fatto fosse forse uno dei lasciti più importanti. Quindi volevo provare ad invertire la freccina e dire come dire le lotte ecologiste ogni tanto sono lotte educanti rispetto a una prospettiva antifascista, ecco. Non so se hai capito. Sì, ho capito, ma guarda, dal mio punto di vista, se vogliamo scomodare la parola rivoluzione, può avvenire soltanto attraverso un processo e non può essere pensata come un evento, quindi non è che avviene di botto, e quindi ha bisogno di essere strutturata anche attraverso delle pratiche, delle mutazioni, delle pedagogie, e sicuramente quella ecologica è molto importante e soprattutto può portare a una visione antifascista più completa, anche perché il fascismo incarna esattamente l'espansione autoritaria, patriarcale, che il colonialismo ha portato fuori dall'Europa e nella maggior parte dei paesi che sono stati appunto succubi di questa espansione. Quindi essere antifascisti vuol dire anche non soltanto criticare i fascisti perché sono fascisti e si dichiarano fascisti, ma perché siamo contro la loro ideologia, che appunto è un'ideologia assolutamente che non pensa al sistema che all'ecosistema che li circonda, che pensa allo schiacciare non soltanto gli altri esseri viventi, ma quelli che sono diversi da loro, e che pone alla base della sua ideologia quello che è una predominanza di una specie e soprattutto di un uomo, no? Di tanti uomini che comandano. E questa cosa appunto è invece un pensiero ecologista, sociale, come ci dice Bookchin, è proprio un combattere con degli anticorpi antifascisti, una visione appunto autoritaria, gerarchica e fascista della società. Quindi l'ecologismo è veramente un buon antidoto contro la deriva autoritaria e fascista, e soprattutto io credo che un buon antifascismo sa dell'importanza di riconoscersi come parte di un tutto, e quindi come avere ben chiaro che bisogna preservare, per vivere in una società migliore, quello che è il nostro intorno, si dice, no? E quindi per questo io credo che ci sia una stretta connessione fra ecologismo e antifascismo, come quando si dice giustamente che l'antifascismo, quello che piace a noi, è quello anticapitalista, e credo che siamo tutti d'accordo nella vostra redazione. L'anticapitalismo per me non può essere un anticapitalismo che non fa una critica appunto al produttivismo, alla società industriale, all'espansione senza se e senza ma del capitalismo, che ha distrutto ogni parte di quello che era un ecosistema che cercava un equilibrio attraverso proprio la relazione intraspecifica, ma soprattutto, come ci ricorda Kropotkin, le nostre cellule si basano su una relazione di mutuo appoggio e di comunità, cioè la nostra specie e le altre specie sanno che si vive meglio e si sopravvive se noi siamo in grado di fare comunità, cioè di gestire una società, potremmo dire, comunista. E quindi questo è, secondo me, l'importanza di un ecologismo versus un discorso completo di antifascismo. Su questo veramente ci stiamo asciugando i lucciconi. Io non avrei saputo sperare di meglio, Andrea. Bene, sono contento. In realtà sono un po', devo essere sincero, sono molto stanco oggi, quindi spero di essere stato chiaro, perché dopo mesi, dovete sapere che dopo mesi e mesi così, visto che in realtà sono abituato a dire solo stupidate con Guglielmo Lore, quindi fatemi dire anche delle stupidate oltre che delle cose serie, in realtà dopo mesi e mesi sono a Milano, e quindi sono distrutto dai mille impegni. Cioè io erano mesi che non vedevo nient'altro che quello che mi circonda nel luogo dove vivo, che è tendenzialmente natura, cinghiali, cane e orto, e vabbè sì, il computer con cui si lavora, però insomma molto semplice. Sono tornato, ho fatto il traffico, la tangenziale, la circonvallazione, l'università, sono un po' come dicono in Spagna, eccio polvo, e quindi scusate se magari sono stato proprio del tutto lineare nelle mie risposte. No, assolutamente, anzi sei stato chiarissimo, super lineare e comprensibile. Noi, non so se tu abbia qualche cos'altro da dire, oppure ti lasciamo tranquillo. No, io credo che una cosa che ci salutiamo, così vado a mangiare, però una cosa che mi ha colpito di questi giorni, non so se l'avete visto, magari sì, ne avete anche già parlato, io non vi ho ancora ascoltato in podcast in questi giorni, di quello che è successo in Spagna, vabbè, da una parte l'arresto del rapper antimonarchico e tutto, ma in realtà quello che a me più ha colpito, mi dispiace tantissimo, gli do tutta la mia solidarietà, ci mancherebbe altro, e la solidarietà a chi sta manifestando nelle strade, però mi ha colpito la manifestazione dei fasci, che è stata impressionante. Sì. Ho visto dei video impressionanti, cioè veramente devastante, una roba di uno schifo immondo. Così era giusto per chiudere. Tra l'altro devo dire la verità, invece c'entra anche un po' col tema di oggi, una delle cose che a me hanno colpito tantissimo è stata la quotazione in borsa dell'acqua. Ah, è vero. che secondo me apre tutta una serie di scenari e di discussioni e di rinecessità di riprendere il discorso sui beni comuni, perché come dire, al di là di quello che vuol dire in termini pratici, è come dire, un sintomo di veramente di una finanziarizzazione che sta andando a mangiarsi qualsiasi cosa, compresa insomma io mi ricordo quando ero piccina che c'erano tutte le varie cheat super famose, tipo quella del Navajo che dice quando non avremo più l'acqua e l'aria, adesso non la ricordo precisamente, era un po' sulla smemo di tutti, però insomma è uno scenario distopico che 20 anni dopo tutto sommato non si ritiene poi più così impensabile come fantascientifico. E infatti bisogna invertire la rotta il prima possibile e assolutamente mettere i bastoni fra le ruote di questo mondo infame che ci circonda. Senti, grazie mille Andrea, veramente buon appetito a tutti. Buon appetito, grazie. Ciao, grazie. E niente, questo era Andrea Staid. Per chiunque non lo conoscesse, andatevi a recuperare i suoi interventi, i suoi libri, perché sono veramente fonte di grandissima saggezza. Tra l'altro, rispetto a quello che diceva, perché noi all'inizio avevamo selezionato due citazioni, e una delle due è veramente, secondo me, adesso devo riaccendere il computer al volo, però una delle due fa il paio con quello che diceva Andrea, e secondo me è un buon modo per chiudere. Poi non so se vogliamo proseguire o vogliamo chiudere. Questa qui secondo me è una citazione molto in linea con quello che diceva Andrea. La vuoi leggere tu? La leggo io? Allora, dice sempre Butchkin: parlare di limiti di crescita in seno ad un'economia di mercato capitalista non ha alcun senso, così come non ne ha parlare di limiti della guerra in una società guerriera. Gli scrupoli morali, cui oggi danno voce tanti ambientalisti sapientoni, sono tanto ingenui quanti quelli delle multinazionali sono fasulli. Il capitalismo non può essere persuaso a porre un freno al suo sviluppo, così come non si può persuadere un essere umano a smettere di respirare. I tentativi di realizzare un capitalismo verde o ecologico sono condannati all'insuccesso a causa della natura stessa del sistema, che è un sistema di crescita continua. E come dire, con questo secondo me potremmo chiudere, nel senso che come al solito Butchkin dice quello che deve. Ha completato tutto. Esatto, e tra l'altro è un rimando non indifferente alla prossima puntata, che non so più quando sarà, aspetta. Martedì 23 febbraio, verosimilmente più o meno sempre intorno a questo orario, ma non vorrei sbagliarmi, seguite l'incontro, l'evento Nuovi Significati per l'Antifascismo, e per l'appunto la prossima puntata sembra fatta apposta, ma si chiama per l'appunto Antifascismo e Anticapitalismo, quindi come dire, quale miglior modo per chiudere. A questo punto abbiamo altro da dire? Ma non abbiamo altro da dire, perché Andrea ha detto tutto quello che andava detto. A questo punto noi ci salutiamo con l'ultima traccia e come dire concludiamo questa trasmissione / podcast. La traccia è una traccia molto famosa che in realtà non forse tutti, io per esempio non ci avevo mai fatto caso che fosse una traccia che aveva comunque come dire un risvolto politico, come molto spesso c'è la Tom York, ma nello specifico appunto di tutela del territorio e contro la exploitation del pianeta. Stiamo parlando di Idiotech, e con i Radiohead noi ci salutiamo. Sì. Ci salutiamo, ciao dalla Buggy e da Greta, e alla prossima, ciao. We'll be right back.